Veniamo da Wanda. Benvenuti! Episodio numero 106. Sì, sì, ci ho preso forse. Ah, perché Cosmic Sin era 104, bravo. Esatto, bravo. E com'è, ci sono Jacopo e Andrea? Bravo. 105? Ma Angela? No, Angela, a quanto pare sta lavorando. Raga, 105 per Persepolis, Andrea. 105 per Persepolis. Che tra l'altro ringraziamo tutti gli amici americani che stanno ascoltando gli ultimi due episodi, perché a quanto pare sono andati fortissimo negli Stati Uniti. Hello. My name pizza is mandolino. The cat is on the table. E per chi se lo stesse chiedendo, in America Andrea ha un nome maschile in Italia. Grazie, l'ho sottolineato. Vabbè, e Angela è l'unico stato al mondo in cui Andrea ha un nome maschile. E vabbè, questo non c'entrava una sega in realtà. Allora, stasera parliamo di una roba che abbiamo aspettato che passasse di moda per parlarne, e solo perché Andrea è riuscito a vederla tutta, e perché in realtà aspettavamo che altre persone guardassero tutta, ma non è successo. Però parliamo di WandaVision, e in realtà anche delle serie in generale Marvel possiamo parlare. Cioè, non in generale. Ah no, in realtà ho anche una roba sulle serie in generale Marvel. E lo sapevate che hanno annunciato semi-ufficialmente che Agents of S.H.I.E.L.D. non è in continuity? Io li odio. Cioè, nonostante abbia alcuni attori che sono stati visti nei film, hanno detto e non detto, ma sembra più detto, che non sarà in continuity. Insieme ai Newmans e a altra roba che è uscita. Non importa. Posso perdonare? So che stai cercando di ferirmi, Salla, ma non ci riuscirò. No, io riporto il fatto, poi tu... Phil perdona. Prendila, io no. Quindi Phil Collins, no, come cazzo si chiama? è ufficialmente morto. No, vabbè, quello si sapeva. Phil è morto diverse volte, definitivamente, diciamo. Ok, no, ma anche, cioè, è morto contro l'occhio e basta. Vabbè, comunque, niente. In realtà questo perché, probabilmente? Perché adesso Disney ha deciso di fare questa operazione super interessante, nel senso che invece che dire vi facciamo vedere delle serie TV, dice vi bombardiamo di serie TV, così almeno una vi piace. Abbiamo preso WandaVision, che è quella la prima uscita. Sapete già tutti di cosa parlo, ma vabbè, nel caso è tipo il credo è il primo, forse, vabbè, è sicuramente la prima serie TV che parla di cose avvenute dopo Endgame, e forse è tipo il secondo film o il terzo film che tratta di roba che è accaduta dopo Endgame. È tipo la seconda roba dopo Endgame. Sì, ed è la prima di una serie di serie. Che carino. Ed è uscita il 15 gennaio 2021, quindi quest'anno, e è finita, vabbè, dopo tot settimane. E sono solo 9 episodi di 30-50 minuti a puntata, però se devo dir la mia, i titoli di coda in queste serie TV della Disney sono enormi. C'è tipo 10 minuti, di 15 minuti di titoli, come se fosse un film vero e proprio. Probabilmente il budget è anche quello di un film vero e proprio. Angela aveva tutti i budget, ma ora non mi può rispondere. Vabbè, comunque, ci sono gli stessi attori della serie TV, che sono Elizabeth Olsen, buonanotte, del film, che sono Elizabeth Olsen, che interpreta Wanda Maximoff e Scarlet Witch, oppure quello che diventerà in questo serie, spoiler, e Paul Bettany, che interpreta Visione, nonostante sia crepato in Endgame, ritorna qua e va bene. E ci sono altri attori molto molto famosi, soprattutto, cioè in realtà famosi in serie TV e altro probabilmente. C'è Evan Peters, che è come si chiama in Quicksilver? Come cazzo si chiama in Quicksilver? Sì. E, nella serie di film di gli X-Men Ma non è il cioè che interpreta il fratello di Wanda, ma non è il cioè è come se avessero fatto questo bellissimo Hai fatto uno gioco. spoiler enorme, Beh, però hai fatto l'hanno bene visto a farlo. tutti WandaVision, cioè sanno anche tutti come finisce. Migliorano un E pochetto. Teyonah Parris è un'altra attrice abbastanza più o meno vista soprattutto in serie TV, soprattutto in Italia, soprattutto in serie TV. E c'è Catherine Hahn, che anche nei trailer, tra l'altro, che ha un ruolo importante, cioè nel senso che compare in ogni puntata. E anche lei ha fatto un bel po' di film, ma come credo caratterista, e ha fatto una vangata di serie TV. E Kat Dennings, che c'era in Thor 1 e da qualche altra parte, credo, e forse anche Sì, Thor 2, forse, sì. E Dusty, che ha qua forse. lo stesso personaggio. E poi basta, non lo so, c'è qualcun altro da ricordare, non saprei. E vabbè, lo sapete forse già, questa serie TV è ambientata subito dopo gli avvenimenti di Endgame e parla di Wanda e Visione che vivono la loro storia d'amore con senza bambini e con senza matrimoni in una città. E la particolarità di questa serie TV è che è organizzata come se fosse una sitcom. In cui ogni episodio ripercorre più o meno il genere, a partire da cosa sono gli anni 60, forse un po' prima, 50, mi anni pare. Mi pare prima anni 50, un 50 po'. e arrivando fino ai giorni nostri. E con tutta la comicità dell'epoca, diciamo il video è riadattato ai video dell'epoca, per cui per esempio nelle prime puntate viene usato il 4 terzi come formato, perché appunto era il formato usato prima dell'arrivo di tutti gli altri 200.000 formati che ci sono adesso, oppure in bianco e nero invece che a colori e queste cose qua. E basta, ha fatto abbastanza al botto in realtà. Sempre su Disney Plus ed è stata appunto la prima delle operazioni commerciali. Ora io potrei anche parlare di questo o potrei anche parlare di quello che ha seguito questa serie, che è The Falcon and the Winter Soldier, che invece ha tipo tutta un'altra impostazione. Però prima boh, sent volevo sentire che cosa avevate da dire voi. Misto, Bella, guardatela. come? È da guardare, è bellissima, appunto, basta, addio. Oddio, per una volta Andrea ha Per una volta Andrea è pensato una felice. cosa. Sì, Andrea, quando ti consigliamo le cose 50 volte vuol dire che... Forse... Ok, sì, avete No, ma è che Guarda sei Mandalorian, bloccato dalle cani. serie TV, se no, cioè, non è quello l'unico tuo limite. Vero, vero, vero. Dicevi, Ma guarda Mandalorian un cane. no? No, dicevo. No, tu hai letto, avevi letto il fumetto? Te l'ho chiesto tipo 3 volte, o no? no? No, ok. Però sapevi Dici qual era il fumetto, cioè l'avevi Adoven? sentito. Sì. Però Ok. vabbè, non c'entra tanto. Per me. Poco. C'entra come idea di base, Come è, esatto. poi dopo l'hanno ficcato nel loro universo che hanno creato. Quindi in Esatto, realtà ci sta bene come idea. Per sì. me è molto figo, ripeto, cioè secondo me si sono un po' fregati a mettere prima questa e poi The Falcon and the Winter Soldier perché poi cioè, relativamente a questo l'altra fa cagare. Cioè forse, no vabbè, ne parliamo meglio dopo, però questa proprio mi è sembrata una cosa fatta apposta, cioè c'era un motivo se era una serie TV. E era anche bello come occasione per andare un po' più a fondo in questi due personaggi, specialmente Wanda, che io diciamo prima di Infinity War Endgame, sì, ok, ci stava, cioè è stato un po' come... erano entrambi, forse non solamente Wanda, due personaggi che ci giravano un po' attorno, non sapevano bene cosa farci. E quindi diciamo di default li avevano messi sulla strada della coppia, no? Cioè nel senso, ah, questi due, capito, hanno avuto un'esperienza simile, sono due bombe nucleari, eccetera. Però mi è piaciuto che le abbiano un po' sfruttati meglio in questa serie per dire una storia un po' più complicata di quanto mi aspettassi. Tra l'altro è un genere diverso rispetto a quello che hanno fatto prima, e che non è male. Cioè, comunque esatto. è una serie TV molto diversa da tutto ciò che avevano fatto prima, come generi, come toni anche, e ci sta, perché la rende molto figa e unica, cosa che invece non è The Falcon. Sì. Cioè, esatto, è una cosa che ha senso, che è una serie comunque mezza comedy, però anche molto drammatica. Non voglio spoilerare, però affronta dei temi difficili e non dà risposte nette, e soprattutto fa una cosa che non fanno mai nei film Marvel, che è non rende l'eroe completamente nel giusto, cioè non lo mette nell'ottica del ah sì, l'eroe ha ragione nella modalità, ecco, cioè. Purtroppo questo c'è anche in Falcon and the Winter Soldier, però non è la stessa cosa. Ne parliamo, però è un'altra cosa quella, secondo me, che è un po' più difficile. Secondo me in generale la linea guida è quella di approfondire personaggi che non sono riusciti a approfondire prima, con attori che comunque sono bravi, perché questi sono sidekick di fatto, e però sono degli attori che meritano, e infatti anche nonostante The Falcon and the Winter Soldier non sia così brillante, e gli attori che sono Sebastian Stan e quell'altro tizio lì, Anthony Mackie, sono degli attori bravi, cioè comunque sanno dare altro rispetto a essere dei semplici sidekick, e questa operazione è riuscita in generale. In questo forse è riuscita meglio. Sì, no, cioè gira voce che Kevin Feige sia sessualmente eccitato nel portare in vita, nel riportare sullo schermo questi personaggi che pensavi di aver visto l'ultima volta, tipo quello dell'FBI che fa i giochetti di carte. O... Ah, ok. Cioè, ogni volta che uno dice, ah cazzo, cioè, ha riportato questo qui che pensavo fosse tipo un personaggio ultra secondario. Cioè, addirittura riporta indietro gli extra, ho saputo. Cioè, la Marvel tiene traccia di tutti gli extra che usa, e a volte riusano gli stessi extra per fare le stesse persone sullo sfondo. Cioè, lui invece che fare tipo fanservice al feticcio di... è meta fanservice. Cioè, esatto, meta fanservice, bravissimo. Esatto. È solo per lui, in realtà. Esatto. Diciamo, ci sono cose che, cioè, ripeto, questa serie mi ha sorpreso perché ha quasi ragione di esistere ed è fatta molto bene. E nonostante tu possa saltarla completamente, e ha un finale, esatto, tu puoi saltarla completamente e andare direttamente da Endgame a Doctor Strange 2, diciamo, senza spoilerare troppo. Però, cioè, non è una cosa che dal punto di vista del personaggio è totalmente inutile, e a parte alcuni personaggi, alcune scene... Tipo quando quella dice, ah, non sapranno mai cosa hai sacrificato per loro, cazzata totale. Cioè, ci sono delle cose che potevano evitare, e ci sono delle scene molto Marvel che potevano anche, cioè, accorciare di... Sì, sono molto origin story, tra l'altro alcuni pezzi... Sì, cioè, inutili. Però ci sono cose nuove e molto anche vere dei personaggi. La famosa nave di Teseo, cioè... Ci sono momenti che dici, cazzo, cioè, è una cazzata, però entra talmente tanto bene nel personaggio che accetti alla fine. Non lo so, io almeno ho avuto questa... Mm-hmm. No, sì, sì, ci sta. Ma, boh, cioè, secondo me, anche alla fine le parti origin story sono un po' una rottura di cazzi a volte, ma spesso sono cose nuove, e quindi, boh, servono per dare profondità al personaggio, non ce n'era del tutto bisogno a volte, però ci possono stare. E anche tutte le scenette che non c'entrano un cazzo, che sono quelle tra virgolette fuori dalla trama principale, cioè nel senso fuori dalla scenografia principale, e ci possono stare. C'è tutte le scene con Teyonah Parris lì, come cazzo si pronuncia il suo nome, e quell'altra, sì, sì, tizia, esatto. Ci stanno, sì. Cioè, mi è sembrata una serie con poco eccesso di grasso, non so come dire. Cioè, sì, magari sì, Netflix, è Netflix anche molto lo fa corta. Di più. È vero. Sì, sì, sì. Cioè, una serie così su Netflix durava 16 puntate, tipo. Esatto, e c'erano tutti i flashback del cazzo di cose. Vabbè, puntata preferita? Puntata posso chiedere qual è stata la vostra puntata preferita? A me sono piaciute le prime, cioè le prime tipo 3-4, in cui per capire un po' i vostri gusti di ambientazione. A me piace questo metacinema, quindi mi sono piaciute tipo le prime 3-4 in cui fa tutti i riferimenti a robe vecchissime. Ok. A me più che altro non è piaciuta una puntata, le altre mi sono piaciute più o meno tutte. C'è una, è una puntata che è quella completamente quasi di flashback, che a parte un paio di scene secondo me stupende, che aggiungono tantissimo di contesto, e che quelle magari le avrei messe da un'altra parte, il resto è tutto roba che sì, cioè potevamo scavarcela con qualche inquadratura a casaccio, non una puntata intera, però vabbè, ci sta a voler spiegare un po' meglio le cose. Cioè, non ho lamentele particolari, non ho un picco altissimo che dici questa puntata, anche perché quei pezzi di merda, appena c'era una scena, oddio, adesso che succede, finisce la puntata. No, sì, dico, sì, parte la sigla ogni volta, ma che cazzo. Sì, a me pure sono piaciute molto le prime, soprattutto quella anni 60. Ah, per il sessismo. Esatto. Le battute sessiste, sì. No, ovviamente. Troppo poco razzismo in quelle puntate, devo dire, se ci avete fatto caso. Il quella sessismo va bene, ma il razzismo no, eh. Quella un po' ispirata a Vita da strega, un po' quelle robe, quella sulla magia, quella storia. Ah, tipo Sabrina, sì. Sì, e vabbè, poi ovviamente quella anni fine anni 90, inizio 2000, che era, cioè, troppo ispirata a Malcolm. Appena l'ho visto iniziare la puntata, sì. Ho detto, oddio, Malcolm, adoro. Malcolm, no, Modern Family anche era uguale. Vabbè, posso dire anche una cosa, cioè, allora, Elizabeth Olsen, diciamo, a parte l'accento, avevamo il sospetto fosse brava, diciamo, mettiamo così. Però Paul Bettany, secondo me, in questa serie, cioè, è esploso, nel senso, non mi aspettavo, non lo so, cioè, ha avuto un momento di non lo so, di luce, di... ha brillato. Sì, secondo me il problema di Paul Bettany è che l'ultima volta che l'avevi visto, probabilmente era in Solo. E quindi hai detto, cazzo, no. Cioè, prima hai detto, vabbè, visione, ci sta. Poi però l'hai visto in Solo, in cui fa tipo l'antagonista. Ho detto, oh mio Dio, quello che gli ha messo in faccia per dargli spessore. Oh no. Non ho capito di cosa stai parlando. È presente il film di Star Wars Solo. Ah, ok. Vabbè, comunque l'antagonista è tipo Paul Bettany, senza il tipo. E gli ha messo, cioè magari è lore, però ha delle cicatrici in faccia e sembra che le abbia solo per dargli uno spessore, per dire lui è cattivo, e per il resto è in linea col film, diciamo. È la prima cosa che verrebbe in mente ad un DM quando deve scriverti un antagonista. Esatto. E ha una cicatrice in faccia. Mi manca un occhio, quelle cose lì. Ciao Marco. Ciao Marco, piacere. Invece la roba da fanservice, cioè le pubblicità durante la puntata, bellissime pubblicità. Ma quella dello yogurt? No, che cazzo era? Yo Magic, mi sono rilassato. Quella, mamma mia. Che poi qualcuno ha fatto un'analisi delle ogni singola pubblicità, che cosa voleva dire, qual era il contesto, a cosa si riferiva. Vabbè, una realtà, delle prime, sì, vai. Cioè, in realtà ogni pubblicità si riferisce a un momento della sua vita e a un tema dell'episodio. Mm-hmm. Quindi, no, poi sono un sacco strane, divertenti, non so, inquietanti. Scusa, dicevi, Andrea? No, sì, infatti, tipo, c'è l'orologio, vabbè, con la marca Strucker, il... Ah, poi mi ha fatto ridere tantissimo il tostavane. Ricordate? Sì. Il futuro Stark Industries, il tostapane. Fantastico. Vabbè, volevo dire una roba stupida, ma non mi ricordo. No, che questa, tra l'altro, è una delle delle prime serie, secondo me, dopo forse Westworld o addirittura Game of Thrones, in cui i fan hanno passato tutte le settimane a fare teorie, a dire roba a caso su quello che sarebbe potuto succedere, eccetera. Ed era da un po' che non c'era sta roba, un po' perché Netflix ti vomita addosso tutto sempre, e un po' è perché comunque nelle altre serie TV non c'erano tante teorie dietro. Però sì, questa è la prima in cui la gente ha cominciato a dire: ah, secondo me questo è un sogno perché è preso dal fumetto in cui pipipipipipi, secondo me esce questo e pupappa questo personaggio, eccetera, tutta la settimana. Sì. Molto figo. Io sono caduto nella trappola. Come Andrea si ricorderà, prima che finisse parlavo con Andrea, diceva: chi sarà il antagonista? Chi sarà questo? Invece, e invece non c'è preso. Però, cioè, non è colpa mia, nel senso, io non... Cioè, la teoria è che l'antagonista fosse un certo Mefisto che era nei fumetti, e io ho detto, no, vabbè, sti cazzi, chi cacchia è Mefisto? Però un tizio aveva detto su Twitter, qualcuno, non mi ricordo, uno degli attori, forse la tizia che fa quella, insomma, non posso dire chi è. Vabbè, a parte no, lo sai chi è, Monica Rambeau. Monica Rambeau, l'attrice, dice, nell'ultima puntata ci sarà... un certo, diciamo, personaggio importante, figo, tipo un astrofisico, non mi ricordo chi è che aveva detto. Ma chi era? Ingegnere. Non lo so. Cioè, ma non c'era. Non c'era. Ok. È una vabbè, la teoria di Mefisto era interessante perché c'entra effettivamente con la nascita dei gemelli, dei figli di Wanda. Però c'entra anche Agatha, quindi vabbè. Poi... E quindi, diciamo... La cosa bella di questo, secondo me, di questo telefilm è che un mini colpo di scena c'è, ma non è il punto. Cioè, non è quello il punto, anzi, ci si divertono. Ci hanno fatto una canzone molto, molto carina, molto esplosa su Spotify. Cioè, alla fine sì, gli spoiler sono importanti, ma la serie è bella comunque, secondo me. Cioè, sì, gli spoiler sono stati importanti mentre usciva. Cioè, in quelle settimane. Adesso ormai... A parte che c'è tutto in rete, tu hai già visto tutto, però cioè, alla fine è rimasta la bellezza della serie TV. Sì, c'è la scena di lei in macchina con la lettera sul sedile aperta, comunque cioè, è una scena che magari ti puoi immaginare pensando a Endgame per quei 10 secondi che lei cioè, fa quella scena con Hawkeye, però... Cioè, è bello comunque vedere quelle scene e stare un attimo lì, quei 2-3 minuti e stare con lei, non lo so, mi è piaciuto come l'hanno fatta. Va bene, Jacopo, dimmi ora cosa ne pensi di The Falcon and the Winter Soldier. No, cioè, come dicevo, secondo me soffre un po' perché è uscito dopo WandaVision, e quindi già guardando i trailer mi sembrava, ho come l'impressione che questa sia un po'... La solita cacchiata Marvel, la solita cavolata. E là è. È un film Marvel, però allungato. Spalmato, sono 6 puntate, tipo da 40 minuti, 50 minuti. Sì. La cosa bella, secondo me, è che hanno detto, ma non cerchiamo di fare una cosa nuova, però invece di fare una cosa brutta, hanno detto, prendiamo esempio da uno dei film più belli, se non forse il più bello, che è Winter Soldier. Tra l'altro è parte del nome, quindi diciamo non è... Sì, sì, sì. E diciamo non c'è spoiler, però il finale della serie era ovvio, cioè quello che sarebbe successo alla fine. Ed è per questo che potete saltarla a pie pari, perché è il finale di Endgame. E il bello è che la serie adesso si chiama come quel film, praticamente quasi. E quindi non sono proprio nascosti dal prendere ispirazione, hanno riusato personaggi, hanno riusato comunque un po' di come posso anche dire, Civil atmosfera. War, se posso dire, nel senso anche Civil War, sì. La cosa bella secondo me è che hanno toccato temi che non mi aspettavo toccassero, e ci sono scene d'azione secondo me stupende, specialmente l'ultima, diciamo con l'elicottero, per non dire altro. Cioè hanno usato bene quello che avevano, ma non abbastanza. Cioè secondo me è una serie che comunque parla di cose tipo giurisdizione, cioè il fatto che l'America è un po' la polizia del mondo, il fatto che comunque cioè come posso dire, la propaganda funziona anche sui soldati americani, sul fatto che comunque, cioè, ha cercato di parlare dei rifugiati e della non lo so, per esatto, quella lì, quella parte lì non ce l'ha fatta, esatto, sprecatissima, bruciata completamente, anche c'è, cioè, motivazioni inesistenti per la tizia terrorista. Però, capito, ci sono scene tipo quella scena nella fontana alla fine di un episodio che, diciamo, contestualizzandola, ovviamente il 90% degli americani che ha visto quella scena non ha capito a cosa si riferiva quella scena, che tipo di impatto aveva. Tutti quelli del resto del mondo, ok, hanno riconosciuto, diciamo, il senso di quella scena. E allora, diciamo che questa serie ha diversi temi. Uno è quello di Cosmic Sin, di cui abbiamo già parlato. esatto. Ed è affrontato un po' meglio di Cosmic Sin. Però, se proprio devo dire la mia, no. Cioè, meglio Cosmic Sin. Che è questo, è il personaggio di Wyatt Russell, che è il nuovo Capitan America. Tanto posso dire, l'hanno già visto tutti, che cazzo me ne frega. E, allora, se vuoi possiamo fare la sezione spoiler, perché magari sì, questo l'hanno visto meno persone. Ha fatto bene. No, in realtà è piaciuto molto a un sacco di persone che conosco e capisco perché, cioè alla fine ci sta, cioè i temi sono molto fighi. Peccato che sia comunque 6 episodi da tipo 50 minuti ciascuno. Quindi è un po' una rottura di cazzi. Mi è piaciuto molto che abbiano caratterizzato meglio Sebastian Stan, il personaggio, cioè, che è The Winter Soldier, e Falcon, perché ci sta. Anche perché se... è la prima volta che l'hanno caratterizzato, cioè, esatto. Lui non ha mai recitato un giorno della sua carriera. Anche se la vita di Falcon è un po' cioè di Sam Wilson è tipo... tipica vita di un tizio campagnolo che si arruola in esercito, e quella di Bucky è un po' tipo tipica vita di uno che è stato in guerra e ha, diciamo, fatto orrori, cioè ha contribuito a fare cose molto brutte durante la guerra, quindi è un po' la storia trita ritrita. È più interessante dal punto di vista di Wyatt Russell, sarebbe stato, cioè, di John Walker, che è poi il nuovo Capitan America, è più sarebbe stata figa quella di Carly Morgenthau, che è tipo la terrorista, tra virgolette, che anche lei avete visto in Solo, per ricordarvi qualcosa. Stesso ruolo, tra l'altro. Stesso ruolo, tra l'altro, sì. E stessi poteri, apparentemente, no, vabbè, però più o meno, eccetera. E poi c'è questa scintilla di Daniel Brühl, che potrebbe essere, che è Zemo, che potrebbe essere il solito... Grande. Sì, allora, da una parte potrebbe essere una roba figa, da un'altra rischia di essere la solita cazzata del tipo, cioè del tipico personaggio che è un po' quello che risolve la situazione, non so come dire, quello che se ne frega delle regole, un po' sbarazzino che piace a tutti, e secondo me alla fine è così. Cioè, purtroppo, o perché a me non era piaciuto in Civil War, o perché mi ero annoiato durante la serie TV, però a me non è piaciuto lui. Cioè, per quanto sia il tipico personaggio che mi piace, nel senso che è quello che fa la battutina, che fa il cazzo che gli pare, eccetera, eccetera, fa l'entrata figa. Balla. Però che balla, sì, che fa cose sue. Non mi è piaciuto perché basta, cioè... sì, hai ragione, viene dopo WandaVision. No, è vero. Cioè, diciamo che la parte, secondo me, riuscita un po' meglio è quella di Sam Wilson, in realtà... perché secondo me proprio lui, proprio l'attore, ha pigiato molto su New Orleans, afroamericani. Sì, molto figo. Cioè, comunque, non hanno cercato di nascondere una problematica che era insita in Capitan America, che è un po' una macchia, un peccato della storia americana, no? Cioè, non hanno cercato di dire che Capitan America... Nazisti, esatto. Cioè, Capitan America non è una figura che non è problematica, specialmente... Capitan America afroamericano, cioè, nel senso, ci sono tanti problemi, ci sono tante cose, e secondo me non ci hanno girato troppo intorno. Sì. Anche un se c'è stato un po' uno spiegone finale che poteva evitare. Sì, però sì. Poteva evitare, poteva metterci la metà delle parole a dire quello che doveva dire, e poteva farlo meno, come dice, qualunquista, cioè, no, meno qualunquista, però meno, capito, vago. Però è un po' vaga la serie in generale, cioè anche c'è anche un colpo di scena di un personaggio che non ha senso, secondo me. Non è la tizia. Non è stato spiegato bene. Io non so perché ci sia. Non lo so. Cioè, quel personaggio e anche la tizia terrorista, sprecatissimi. Secondo me lui, Wyatt Russell, se l'hanno, cioè meglio, però al finale mi ha lasciato un po' interdetto, però c'è Julia Louis-Dreyfus che è fantastica per tutti quei 5 secondi che stava sullo schermo. Esatto. E ripeto, cioè Sam Wilson e Bucky, cioè non penso che siano omosessuali, però se fossero omosessuali sarebbero bene come coppia dopo questo film, perché ho pensato, cioè l'idea, tu guardando il trailer pensi, ah, sarà la solita buddy cop movie, no? Che lui è quello serio e lui è quello che fa la battutina che cerca di nervosirlo. Invece alla fine si... cioè è quasi come se si stessero facendo terapia a vicenda. Cioè sono uno lo psicologo dell'altro quasi a un certo punto alla fine. Sì, cioè comincia così e in effetti all'inizio ti scende un po' la catena, però sì. Cioè, ti... E quindi cioè, la relazione che hanno ora è non è solamente conosciamo lo stesso tizio morto, che in realtà forse non è morto, però è più tipo... cioè hanno passato la stessa cosa e soprattutto Sam Wilson è comunque rimasto il tizio che faceva il, come si dice, quello che fa terapia di gruppo con i veterani, come si dice, vabbè, quello. Quello che sì, ho capito, sì. Allora, c'è una cosa che devo dire perché sennò Angela mi picchia, che per tutti quelli, allora, diciamo che la Marvel non è più così nerd come era quando era solo un fumetto, ovviamente questa è tipo la cosa ovvia che dicono tutti, e i suoi fan si sono estesi anche a fan che non sono avvezzi a supereroi eccetera, perché ormai si è un po' staccata la cosa, però è rimasta una roba, ed è che i personaggi non sono tipo Dragon Ball, nel senso che hanno una forza X. Cioè, i poteri e le abilità dei personaggi sono relativi al tipo di storia che devono raccontare. Perché ho detto sto pippone? Perché in questa serie, e dà un po' fastidio anche a me che so già come funziona questo mondo, Bucky è una sega. Cioè, è letteralmente una sega. No, non è vero. Fa schifo, prende legnate da tutti. Cioè, persino da Sam Wilson. Cioè, lui prende legnate da chiunque. Se tu lo guardi questo film dopo aver visto Capitan America The Winter Soldier, questo qua ti sembra che abbia avuto un aneurisma. Cioè, ti sembra veramente il pensionato. Allora, che... dai, non è vero, ci sono dei flashback dove spacca i muri, fa esplosioni, cose. Sì, ma così. Da solo, cioè quando è a casa da solo lui picchia i muri. Cioè, no, prende, no, cioè... Lui prende delle legnate anche da John Walker quando non è un super soldato. Ma ci sta, nel senso che alla fine è la solita cosa. Cioè, quanto è forte Hulk? Hulk è forte quanto deve essere forte per la storia. È una cosa che è dei fumetti, è fatta così. Cioè, funzionano così i fumetti di supereroi. Cioè, tutti i fumetti di supereroi. È ovvio che se estendi i fan, alcuni fan potrebbero chiedersi, ma scusami, questo tizio che picchiava tutti da solo... compreso Capitan America e ha messo in crisi tutto lo Shield da solo, perché ora si fa pestare da una ragazzina e da un tizio con le ali finte? Cioè, mia sala, cioè, no vabbè, nel senso, stai calmo, cioè, non è che no ci sta. Oppure tipo Sam Wilson quando sul finale si legna uno che è un super soldato a mani nude. Ora va benissimo, ci sta, perché comunque ha lo scudo e tutte le cazzate, eccetera, eccetera. Però siamo passati da lui che prende legnate tipo da tutti in tutti i film precedenti a lui che adesso è un figo da paura. E va benissimo, da persona a cui piacciono i fumetti di supereroi, non va bene, cioè potrebbe non andare bene da uno che guarda, tipo mia mamma che guarda questo e dice ma questa è una sega. Oddio, Lucia che fa il commentario su Falcon and the Winter Soldier è tanta roba. Cioè, devo fare tipo... facciamola, come si dice, la puntata speciale come per Nick Cage. Sì, non credo che accetterebbe, però... Niente, vabbè. Comunque sì, cioè, ci sono delle note positive, però sì, c'è cioè, un po' una cacata, insomma. No, è fatto così, poi sì, è un film Marvel lungo, allungata la broda. Quindi Andrea, se vuoi non vederlo, questo te lo abboniamo. Però gli effetti speciali sono fantastici, come WandaVision, sono, per essere una serie TV, è come The Mandalorian, cioè è roba mai vista per una serie TV, sì, quasi. Considerando che i budget di questi tre sono tutta la cinematografia Avengers fatta finora. Esatto. Però sì, certo. No, cioè nel senso è se lo consideri come una serie TV è roba mai vista, se lo consideri come una roba da Sì, no, Marvel dici beh, nel senso. sono serie TV comunque curate come se fossero film di serie A, ma film fatti bene. Sì, comunque diciamo che la Disney ci ha investito un botto, ci sta che siano fatti molto bene. Niente, vabbè, fatevi Disney Plus, non ci sta sponsorizzando. E basta, se non avete altro da aggiungere. E se non avete altro da aggiungere, noi vi ringraziamo di averci seguito e ci diamo appuntamento per un episodio molto felice su un film che fa ridere la settimana prossima. Che silenzio. No, no. Ciao ciao.